Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Questa è la terza conferenza che facciamo. Abbiamo qui il professor Pezzino che ci farà la relazione sull'esistenza in Italia dal 1943 al 1945. Io vorrei ricordare un po' anche quello che ha fatto anche il professor Pezzino, che oltre a essere presidente dell'Istituto Patri, quello nazionale, c'è uno di Bologna che si chiama nello stesso modo. Questo è quello nazionale dove fanno capo tutti gli istituti. Il capofila della rete. Della rete degli istituti di storia contemporanea del movimento per la lotta di liberazione. Comunque il professor Pezzino è titolare della cattedra di storia contemporanea. Era. Adesso è pensionato. È pensionato. Senza la quota 100. No. No, senza la quota 100. È pensionato. Per cui era relativo al corso di lavoro in storia, nel corso triennale e del corso di laurea della storia di civiltà per la specialistica dell'Università di Milano. Socio fondatore della Società Italiana per gli Studi della Storia Contemporanea, membro del comitato di direzione della rivista Passato e Presente, presidente del comitato scientifico del Museo Audiovisivo della Resistenza, di Corti Novo, è direttore del Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea della stessa Università di Pisa, dal 2000 al 2003, prorettore per i rapporti con il territorio dell'Università di Pisa, dal 2003 al 2006, direttore della Scuola di Rettorato in Storia Orientalistica e Storia dell'Arte, Università di Pisa per il triennio 2010-2011. Dal 1 novembre 2011 all'1 giugno 2014 è stato distaccato presso il Centro Linceo Indisciplinare degli Interdisciplinare, Beniamino Segre, dell'Accademia Nazionale dei Licei di Roma. Ecco, adesso noi diamo inizio alla conferenza, poi naturalmente ci saranno le domande, siccome anche questa conferenza la registriamo in modo da poterla riprodurre per chi poi è interessato ad averla. Gli interventi vi prego di identificarli in modo che resta tutto segnato sulla registrazione. I tempi non sono strettissimi, nel senso che poi il professore deve tornare a casa e non abita qui. Per conseguenza diciamo che intorno massimo alle 6 dobbiamo terminare la conferenza, altrimenti dobbiamo ospitarlo qui per tutta la settimana, così regolate insomma. Diamo inizio alla parola dopo questo pezzo. Grazie dell'invito e della presentazione, ma io sono qui soprattutto in qualità di studioso a parlarvi di un tema, quello della resistenza in Italia, che è ancora un tema caldo, scottante, perché la resistenza, come vedremo, ha ancora delle controversie sulla sua utilità che attraversano il mondo politico e anche l'opinione pubblica. Io direi che però partirei dal fascismo, intanto perché resistenza è resistenza al fascismo, oltre che all'occupazione tedesca, e poi perché anche queste polemiche sulla resistenza, delle quali parleremo, in realtà derivano da un atteggiamento di sottovalutazione di quello che è stato il fascismo. Nel fascismo oggi si tende a dare un'idea molto sminuente. Si dice che in fin dei conti il fascismo non ha fatto delle cose sbagliate, che ha fatto solo due errori: l'entrata in guerra e le leggi razziali. Ora, queste affermazioni sono affermazioni false, intanto perché non tengono conto di tutto quello che il fascismo ha fatto prima dell'entrata in guerra e prima delle deportazioni, e cioè l'abolizione delle principali libertà politiche, sindacali, di pensiero, di manifestazione e così via. E secondo, l'entrata in guerra, che viene rappresentata spesso come un errore del fascismo, in realtà non è stato un errore, perché il fascismo fin dall'inizio al suo interno ha incorporato tutti i più virulenti caratteri del nazionalismo e quindi anche una concezione aggressiva ed espansiva degli interessi nazionali, della patria, come si chiamava allora, che faceva parte del suo originario bagaglio ideologico. E quindi in questa concezione la guerra non rappresenta una tragedia da rifiutare, quanto piuttosto un'opportunità da cogliere appena se ne presenti l'occasione. Infatti, lo sappiamo tutti, il fascismo, no, tutti no, perché qualcuno se l'è scordato, molti se ne sono scordati, fin dall'inizio non solo alimenta il mito della vittoria mutilata nella prima guerra mondiale, ma manifesta propensioni espansionistiche verso l'Adriatico, verso il vicino Oriente, verso l'Africa, e ha un'ideologia che è apertamente militarista, cioè tende a fare degli italiani dei bravi soldati, degli ottimi combattenti. Tant'è che, come sapete, anche nelle scuole l'istruzione pre-militare era obbligatoria. E questo è il primo punto. Anche sul secondo punto, il punto delle leggi razziali, di cui quest'anno, l'anno scorso abbiamo ricordato l'ottantesimo anniversario dall'emanazione, si sono diffuse molte falsità. La principale è che in realtà Mussolini non fosse razzista e abbia promulgato la legislazione razziale per fare un favore al suo alleato tedesco. E questo ormai l'ha chiarito la storiografia. L'emanazione delle leggi razziali è stata un'autonoma iniziativa politica del fascismo, nella quale, e certo, a Hitler ha fatto piacere perché il fascismo si allineava alla politica razziale tedesca e per alcuni versi la superava anche in intensità, per esempio nella descrizione di chi era di chi andava considerato ebreo nei mezzi sangue, ma è stata una iniziativa autonoma di Mussolini, perché in realtà un nazionalismo acceso, un nazionalismo di chi dice prima gli italiani, perché a noi consideriamo soprattutto gli interessi degli italiani, ha insito al suo interno una propensione, una deriva verso il razzismo inevitabile, inevitabile. Quindi quando voi sentite dire prima gli italiani, rizzate le orecchie, perché lì avete davanti un razzista non potenziale ma reale. Detto questo, bisogna dire che il fascismo in effetti ha avuto un forte consenso nella popolazione italiana. Certo, il consenso di un regime dittatoriale non è il consenso che si raggiunge in un regime democratico. Già il consenso in un regime democratico dipende da molte cose, dai rapporti di forza, di potere, dalla diffusione o meno di mezzi di comunicazione di massa che non siano tutti in mano a monopoli di singole persone oppure di blocchi di potere, quindi ha una diffusione nella società civile di cultura, informazione e così via, ma tanto più un sistema dittatoriale che proibisce la libera espressione delle proprie opinioni e delle manifestazioni di dissenso e di potere. Quindi questo va sempre ricordato. il consenso del fascismo viene raggiunto con la distruzione delle libertà di pensiero e di manifestazione di pensiero. Ma è indubbio però che a un certo punto, e soprattutto il punto più alto dopo la creazione dell'impero, cioè dopo l'impresa coloniale del fascismo, la conquista dell'Etiopia, l'ultima impresa coloniale di un paese occidentale ormai fuori tempo massimo, oltretutto condotta contro uno Stato autonomo e indipendente, l'Etiopia, che faceva parte della società delle nazioni, non era impresa coloniale per conquistare terre cosiddette di nessuno, come erano state in parte le imprese coloniali nell'Ottocento, ma l'Etiopia era uno Stato, aveva delle tradizioni, era uno Stato autonomo, quindi è l'aggressione a un altro Stato. Ebbene, quello fu il momento più alto di consenso del fascismo, consenso che divenne dalla popolazione italiana, che divenne dalla Chiesa Cattolica, anche se l'Etiopia poi era un paese cristiano, non era un paese cattolico, ma era un paese cristiano. E quindi proprio su un consenso raggiunto sul momento più alto del nazionalismo. Però questo consenso era soggetto naturalmente al fatto che il fascismo continuasse a mantenere le promesse che continuava a fare agli italiani, cioè promesse di creare la patria di nuovo, una patria più grande, più potente, più rispettata, in ultima analisi un maggior benessere per gli italiani. È chiaro che quindi questo consenso si erosse con la guerra. L'entrata in guerra fu fortemente voluta da Mussolini, che la procrastinò di un anno rispetto allo scoppio della guerra, proclamando, attenzione, non la neutralità ma la non belligeranza, cioè non era neutrale affatto, eravamo legati alla Germania da trattati, quindi non c'era neutralità, ma non belligeranza perché proprio perché l'Italia dopo la guerra d'Etiopia, dopo l'intervento in Spagna, era impreparata a una nuova impresa bellica. Ma quando i primi successi della Germania convinsero Mussolini, come disse lui, che aveva bisogno di qualche migliaia di morti per potersi sedere al tavolo della pace e ottenere dei vantaggi, la guerra diventò inevitabile, si entrò in guerra nel giugno del 40 con quella che i francesi ancora ora ricordano come una pugnalata alle spalle, perché la Francia era ormai ridotta in ginocchio dopo la sconfitta della Germania, e in effetti la dichiarazione di guerra di Mussolini fu una vera e propria pugnalata alle spalle. Ma la guerra provocò anche il distacco dal consenso, e questo è un primo punto da capire. Le opposizioni interne sotto il regime fascista c'erano, ci sono sempre state, c'è stato un'attività cospirativa in periodo fascista, soprattutto del Partito Comunista, varie volte colpita molto duramente dalle strutture repressive del fascismo, ma che poi rinasceva, ma era indubbiamente un'attività molto limitata, molto ridotta, anche piuttosto isolata rispetto alla popolazione italiana. Vi erano soprattutto in Francia gruppi di antifascisti rifugiatisi lì, che però non potevano contro il regime. Il crollo del fascismo avvenne fondamentalmente per gli insuccessi militari, non per l'attività politica delle opposizioni, che erano, ripeto, praticamente ridotte ridotte a, a, a essere poca cosa e molto isolate nel paese. E il crollo fu rapido, le sconfitte praticamente su tutti i fronti di guerra, ma soprattutto la sventurata campagna di Russia che il fascismo, che Mussolini volle ancora una volta, non perché glielo chiedesse Hitler, ma volle essere lui a partecipare a quella che stava assumendo i caratteri di una vera e propria guerra di civiltà tra contro il bolscevismo, e Mussolini naturalmente non poteva non partecipare a questa guerra. Beh, quello fu un momento tragico, tragico per gli italiani, del distacco dal regime fascista. Vi erano già stati momenti difficili sia nei Balcani, in Grecia, in Africa settentrionale, ma le sorti dell'Armata Italiana di Russia, l'ARMIR, che coinvolsero centinaia di migliaia di soldati mandati allo sbaraglio a combattere in ambienti difficilissimi senza avere l'attrezzatura giusta, la tragica e ritirata, fece sì che effettivamente il regime lì perdesse il contatto con la società italiana. Pensate a quanti erano i parenti, le famiglie dei soldati che o erano dispersi in Russia o erano morti, o tornavano e raccontavano quello che avevano visto, il modo in cui erano stati mandati veramente allo sbaraglio dal regime. E tuttavia, ancora una volta, la caduta del fascismo, la caduta di Mussolini, non fu opera delle opposizioni politiche. Il 25 luglio del 43 Mussolini cade, come sapete, viene fatto arrestare dal re per un complotto fondamentalmente della monarchia di personaggi del mondo militare legati all'esercito e quindi a loro volta legati al re dal giuramento di fedeltà, che coinvolse una parte interna del regime, il famoso voto del Gran Consiglio del 25 luglio del 43, che appunto criticò apertamente per la prima volta il duce. E quindi la caduta del fascismo, che fu rapida, ricordo che dimostrò l'inconsistenza ormai del regime, perché anche associazioni come il Gran Consiglio si spaccò appunto in due, e la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che era una milizia creata apposta per essere il braccio armato del fascismo, che quindi in quell'occasione avrebbe dovuto intervenire per difendere Mussolini, si squagliò come neve al sole, e quindi praticamente il fascismo cadde senza nessuna vera opposizione interna da parte di irriducibili fascisti. Mussolini fu arrestato, portato nel Gran Sasso, fu creato un governo che era un governo tecnico, si potrebbe dire oggi, senza politici, diretto da Badoglio, che era un personaggio pesantemente implicato nelle imprese fasciste, pesantemente coinvolto nelle responsabilità dei crimini che il fascismo aveva commesso, si cercò in altre parole di creare un regime che fosse un fascismo senza Mussolini, più moderato. Furono abolite le varie istituzioni del fascismo, il Gran Consiglio, la milizia, però fu data una certa libertà di azione politica, nel senso che gli oppositori politici che erano in carcere furono liberati, non tutti, non subito, ma furono liberati un po' per volta, Il progetto del re di Badoglio era quello di creare un regime autoritario che prendesse le distanze dal fascismo di Mussolini, ma portasse avanti una politica appunto di tipo autoritario, di destra e così via. Quello che fa cadere questo progetto è la guerra e soprattutto il tema di come uscire dalla guerra, perché il re e Badoglio volevano l'armistizio e Mussolini era stato fatto cadere apposta per quello, ma c'era il grosso problema di far accettare una posizione del genere all'alleato tedesco, il quale, immaginando quale sarebbe stato l'esito di questa situazione, fin dopo il 25 luglio, fin dall'inizio dopo il 25 luglio, cominciò a far affluire forze militari tramite il Brennero, distolte da altri fronti di guerra in Italia, immaginando che prima o poi l'Italia si sarebbe staccata dall'alleanza e quindi anche si sarebbe staccata dalla guerra. Ora, tenete presente che Badoglio e il re erano terrorizzati dalla reazione tedesca a un eventuale armistizio. L'armistizio, per carità, era inevitabile, le sorti dell'Italia erano ormai segnate, come sapete, prima ancora della caduta di Mussolini, gli alleati erano sbarcati in Sicilia, quindi per la prima volta dalla unità l'Italia aveva visto le sue terre, i suoi territori occupati da potenze straniere, e quanto fosse importante allora aver colpito l'Italia lo dimostra che lo sbarco in Sicilia fu la più grossa operazione congiunta marina, aviazione e fanteria, il più grosso sbarco della guerra fino ad allora. Poi dopo verrà lo sbarco in Normandia che lo supererà, ma fino ad allora era la più grossa. Però si sapeva benissimo che Hitler avrebbe considerato un tradimento il passaggio di fronte, non il passaggio di fronte, l'armistizio, la resa. E rispetto a questo i re Badoglio temevano soprattutto per la propria persona, temevano la possibilità di essere arrestati, deportati in Germania e così via. Che cosa fecero? Fecero la cosa peggiore che potessero fare, una specie di doppio gioco. Continuarono a portare avanti le trattative con gli alleati in grande segreto, ma anche in modo molto contraddittorio, mandando vari emissari, per cui gli stessi alleati rimanevano perplessi della volontà italiana effettivamente di arrendersi, ma continuarono a accettare che la presenza militare tedesca in Italia aumentasse, perché altrimenti avrebbero dovuto manifestare la loro opposizione e quindi aggravare i sospetti della Germania. Come sapete, la situazione fu che l'armistizio fu annunziato dopo vari ritardi, omissioni da parte del re e di Badoglio, per un atto di forza, direi, di Eisenhower, perché stanco di aspettare che il re desse il consenso a un annunzio contemporaneo da parte dell'Italia degli alleati, l'8 settembre annunziò la resa italiana. E questo provocò una situazione di totale sbando dello Stato italiano e dell'esercito italiano. Il re Badoglio scapparono a Pescara, da lì si imbarcarono, a Brindisi, insieme ad alcuni ufficiali, altri ufficiali di Stato Maggiore, lasciando le truppe praticamente senza nessun riferimento preciso su quello che avrebbero dovuto fare. In particolare con un proclama molto ambiguo di Badoglio, in cui si diceva che davanti alle forze preponderanti degli alleati l'Italia chiedeva da resa, ma che avrebbe risposto ad attacchi da qualunque parte provenissero. Allora è chiaro che in quel momento gli attacchi potevano provenire solo dai tedeschi, però è anche chiaro che se fosse stata organizzata meglio una opposizione militare contro i tedeschi, le cose sarebbero andate in parte diversamente. Sarebbe stato difficile garantire l'esercito italiano che operava nelle zone esterne all'Italia, in particolare in Grecia e nei Balcani, ma per esempio intorno a Roma le truppe italiane avevano una netta preponderanza rispetto a quelle tedesche. Quindi con una resistenza organizzata da Re e da Badoglio e dagli altri comandi sarebbe stato possibile probabilmente un'occupazione di una parte minore della penisola italiana, ma questo non avvenne e l'8 settembre avvenne il lo sfascio dell'esercito e dello Stato italiano. Allora, e qui noi abbiamo un primo mistero. C'è chi vede l'8 settembre, come è stato detto, riprendendo un romanzo di Satta, uno scrittore sarto, la morte della patria. L'8 settembre si sfascia tutto e l'Italia non c'è più, muore la patria. E da questo punto di vista, questo tipo di visione sostiene anche poi interpretazioni in qualche misura patriottiche che da alcuni futuri aderenti alla Repubblica Sociale Italiana verranno fatte, soprattutto da giovani che aderiscono allora, dicendo: davanti all'onore della patria calpestato dal tradimento del re di Badoglio, davanti alla vergogna di un esercito che si sfà di soldati che si spogliano nella divisa e, se sono in Italia, cercano di raggiungere le loro famiglie vestiti con abiti civili raccattati ovunque, noi sentimo il bisogno di difendere invece l'onore della nostra patria, e quindi motivano l'adesione alla Repubblica Sociale come una reazione appunto al disonore della patria provocato dal tradimento, tra virgolette, del re dei Badoglio. E invece poi c'è un altro punto di vista. L'8 settembre nasce la resistenza. Allora, questo in parte è vero, perché non tutti abbandonarono le armi e scapparono. Una serie di combattimenti tra italiani e tedeschi, in cui furono coinvolti reparti armati dell'esercito, ma a Roma anche alcuni civili, avvennero lo stesso. Episodi di resistenza spontanea o organizzata da tutti i comandanti di reparti vi furono a Trento, Gorizia, Trieste, Cuneo, Savona, La Spezia, Pisa, Piombino, Chieti, Ascoli, Viterbo, Napoli. La flotta si recò a Malta secondo le clausole dell'armistizio, dove tuttavia arrivò solo una metà delle navi, perché perché le altre furono affondate. All'estero, dove era più difficile per i soldati pensare di poter arrivare alle proprie famiglie, le truppe italiane combatterono con quelle tedesche in molti luoghi, soprattutto in Germania, Corfù, Rodi, Lero, Kos, nel Dodecaneso, Cefalonia, che è il punto più noto della resistenza italiana, e ovunque dopo la resa gli italiani furono, gli ufficiali soprattutto, furono passati per le armi. In Grecia e Jugoslavia numerosi soldati italiani si unirono alle resistenze locali, però con rapporti non sempre facili, perché ad esempio la divisione Pinerolo stanziata in Tessaglia partecipò alla resistenza greca, ma i rapporti con l'ELAS, l'esercito popolare greco di liberazione guidato dai comunisti, furono difficili, anche perché la Pinerolo si era macchiata di brutalità durante l'occupazione italiana della Grecia, e quindi per esempio nella zona dell'ELAS i soldati italiani furono internati, disarmati e internati in campi in Macedonia, in Tessaglia, dove ricevettero un trattamento molto duro che portò alla morte per malattia o denutrizione di molti di essi. A parte questi, circa 10.000 militari caddero all'esterno, all'estero, partecipando alla resistenza nei Balcani. Non sono molti, 10.000 militari. E quindi cominciamo a dire che la prima resistenza armata viene dall'esercito. Viene dall'esercito in nome della fedeltà al re e del giuramento di fedeltà al re, che certo possiamo dire noi non è che se lo meritasse molto, perché era un grosso figuro che non solo aveva favorito l'ascesa al fascismo, ma non aveva mai trovato niente da ridire sulle politiche criminali del fascismo, e aveva firmato tranquillamente, mentre era in vacanza nella tenuta di San Rossore vicino a Pisa, le leggi razziali. Ma comunque nell'esercito e soprattutto tra gli ufficiali certe giuramento di fedeltà è una cosa che conta. Quindi cominciava a dire che appunto vi fu una resistenza militare. Peraltro Roma capitola il 10 settembre alle 16, nonostante alcuni combattimenti, tra cui i più famosi sono quelli a Porta San Paolo, in cui per la prima volta accanto ai militari in divisa partecipano alcuni civili non ben visti dai militari in divisa, perché i militari in divisa considerano i civili combattenti irregolari, quindi insomma non sono molto favorevoli, ma insomma è il primo momento in cui una parte ridottissima della società civile ritiene di dover opporsi con le armi. E nonostante che venisse proclamata città aperta unilateralmente dagli italiani, gli alleati non lo riconosceranno mai, fu occupata dalle truppe tedesche. Il 12 settembre un comando di paracadutisti tedeschi, comandato dal maggiore Skolseny, libera Mussolini dal Gran Sasso e lo trasferisce in Germania. Qual è allora la situazione dopo l'8 settembre? Intanto furono pesantissime le conseguenze sull'esercito. I tedeschi occuparono, catturarono 1.300.000 fucili, 11.500 pezzi di artiglieria, 16.600 armamenti, carburanti, munizioni e materiale vario. i soldati italiani che si arresero all'estero furono internati in Germania e a loro fu proposto di arruolarsi nell'esercito tedesco o nell'esercito che Mussolini e Graziani, che nel frattempo Mussolini aveva ricostituito, come sapete, la Repubblica Sociale, cercavano di formare per poter presentarsi nuovamente a Hitler come i vecchi alleati, ma Hitler non si fidava e non fu mai disposto a dare neanche a quelle persone che poi accettarono di militare nell'esercito di Salò l'armamento necessario a un'effettiva partecipazione agli scontri bellici, furono utilizzati soprattutto in funzione antipartigiana. Di questi circa 800.000 o un po' di più internati in Germania, 650.000 furono quelli che rifiutarono invece qualsiasi forma di collaborazione e rimasero nei campi di internamento, dove la vita era molto difficile, pur di non accettare l'arruolamento. Quelli che lo accettarono poi in parte, arrivati in Italia, disertarono, lo accettarono per riavvicinarsi alle loro famiglie. Allora, già questo è una forma, prima forma di resistenza, perché indubbiamente se vi fosse stata un'adesione di massa all'esercito di Salò o all'esercito tedesco di soldati italiani, e questo sarebbe stato, avrebbe molto favorito l'occupazione tedesca in Italia. E non si ricorda questa forma di resistenza, che è una resistenza, se volete, passiva, anche se è un termine inadatto, perché non è proprio passiva, nel senso ci vuole forza d'animo per vivere in condizioni spesso difficilissime, spesso, non sempre, dipendeva dove venivano internati questi soldati e come venivano utilizzati, ma per esempio quelli che venivano utilizzati nell'industria bellica, nelle miniere e così via, se la passarono veramente male e ne morirono di loro all'incirca 10.000 nei campi, 20.000 caduti in combattimento, fucilati o feriti. E quindi è una prima forma di resistenza. Ma vediamo, torniamo a quello che succede in Italia dopo l'8 settembre. Appunto, l'esercito si spanta e qui interviene il ruolo delle donne, altra forma di resistenza. Le donne cosa fanno? Fanno un'opera svestizione e rivestizione dei soldati. Trovano questi soldati sbandati, li fanno togliere le divise, li vestono come possono, spesso con vestiti di mariti o di figli o di genitori che erano sotto il servizio militare all'estero, cercano di aiutarli perché i tedeschi cominciano a fare razzie di giovani italiani, italiani in età militare, ovunque, e quindi svolgono un'azione di ritornano madri di questi soldati. Le storiche hanno usato il termine che è maternage di massa, cioè una funzione materna esercitata in massa dalle donne italiane. E quindi possiamo dire che anche questa è una forma importante di resistenza. Ma a parte questo, ci sono forme di resistenza che gli storici chiamano resistenza senza armi, resistenza civile. Per esempio, una forma di resistenza civile sono stati di scioperi operai che nel marzo del 43, prima della caduta del fascismo, avevano segnalato una divaricazione tra fascismo e classe operaia del nord. Che poi questi scioperi fossero motivati dal peggioramento delle condizioni di vita, niente toglie al fatto che avevano una chiara funzione politica antifascista. E però vi è anche un'altra forma di resistenza, che è la resistenza armata. Il senso militare per resistenza armata si intende l'insieme di formazioni di civili volontari che a partire dal settembre del 43 combatterono contro i tedeschi secondo i metodi della guerriglia, anche se non mancarono episodi di scontri frontali. Le formazioni partigiane erano presenti per lo più in zone montuose, boschive, difficilmente raggiungibili, ma erano presenti anche nelle città con i GAP, i gruppi di azione patriottica, e le SAP, le squadre di azione patriottica. I partigiani, che però allora non si chiamavano così, i tedeschi li chiamavano banditi e loro si definivano patrioti. Erano organizzati in gruppi che col crescere del loro numero si articolavano in divisioni e in brigate. E dal 9 giugno 44 formalmente coordinati dal Comando Generale per l'Italia Occupata del Corpo Volontari della Libertà, CVL. Di fatto però le formazioni ebbero sempre un'autonomia molto ampia, anche se non mancarono episodi di coordinamento su scala più alta. Le principali formazioni appartenevano al Partito Comunista, le Brigate Garibaldi, al Partito d'Azione, le Brigate Giustizia e Libertà, poi vi erano formazioni socialiste, le formazioni Matteotti, poi vi erano formazioni cattoliche, le Fiamme Verdi, e poi vi erano formazioni autonome che combattevano sempre per lo più composte da ex militari che combattevano sempre in nome di una alleanza, di una fedeltà al re. Però dovete considerare che non tutti, per esempio, i membri delle formazioni garibaldine erano comunisti. Intanto perché spesso l'adesione a una formazione derivava dal caso, se la formazione più vicina al luogo dove un gruppo di giovani voleva unirsi ai partigiani e alla garibaldina era la scelta più ovvia, che loro entrassero in quella formazione anche se non erano comunisti e garibaldini. Poi siamo in una fase in cui le appartenenze politiche sono piuttosto fluide dopo 20 anni dittatura. Quindi, diciamo, fu indubbiamente un fenomeno politicamente molto articolato, molto articolato. L'altra cosa fu un fenomeno spesso locale. Teoricamente i partiti antifascisti che si erano uniti nei comitati di liberazione nazionale formati su base paritetica da tutti i partiti antifascisti, dai liberali fino ai comunisti, pretendevano di governare la resistenza militare. I CLN stavano nelle città, erano composti da antifascisti, spesso furono anch'essi decimati da arresti a seguito di delazioni e così via. In teoria erano l'organismo politico della resistenza, ma nei fatti le squadre, le bande militari furono bande molto autonome a volte non riconoscevano proprio l'influenza del CNN, spesso erano in competizione tra di loro, per cui i ripetuti tentativi di creare, per esempio, comandi unificati tra le varie formazioni normalmente non ebbero riscontro, e quando si cercò effettivamente di creare un comando unificato, se non altro a livello centrale, ma che funzionasse anche ai livelli periferici, era ormai troppo tardi, perché eravamo alla vigilia dell'insurrezione nazionale. Che contributo dettero queste formazioni militari alla lotta contro i tedeschi? Perché qui stiamo parlando di comitati di liberazione nazionale, di gruppi di formazioni militari che si opponevano all'occupazione tedesca dell'Italia. Allora, dobbiamo cercare, io credo, dal punto di vista storico, di evitare due eccessi. Il primo è stato quello che spesso dopo la fine della guerra ha rivendicato alla resistenza un ruolo fondamentale o quasi unico nella liberazione dell'Italia da parte degli antifascisti, cioè è stata molto sovrastimata il peso della resistenza, facendo scomparire quasi il peso degli alleati. Ricordiamoci che la campagna d'Italia è stata una campagna durissima, che ha visto sia sul fronte tedesco sia sul fronte alleato perdite molto elevate, di centinaia di migliaia di persone. In molte ricostruzioni del dopoguerra si esalta il valore dei partigiani, si accresce il numero di caduti tedeschi in azioni partigiane e si dimentica praticamente il ruolo degli alleati. Questa è una prima tipo di falsa impostazione, sbagliata impostazione del problema. Poi c'è un'altra impostazione sbagliata dall'altro punto di vista, quella di chi dice: ma i partigiani non servivano a niente militarmente, erano in realtà per lo più sbandati e renitenti alla leva, la leva che era stata proclamata dalla Repubblica Sociale Italiana e da Graziani, che voleva appunto un esercito italiano che fiancasse quello tedesco. Sono andati in montagna per sfuggire alla leva, non hanno fatto praticamente niente. E c'è una terza posizione di quelli che dicono la formazione, la creazione di bande partigiane ha avuto un significato politico importante, perché ha rappresentato la voglia di una parte ovviamente della società italiana, minoritaria, ma questo è inevitabile, non è che tutte le popolazioni italiane potessero andare in montagna, oltretutto non erano esattamente condizioni che si addicessero per esempio a persone che non avessero un'età giovanile e una salute abbastanza buona. Quindi ha rappresentato un momento di risveglio morale. Ricordo una bella frase di Natalia Ginzburg, moglie di Leone Ginzburg, partigiano azionista catturato a Roma e morto per le torture da parte dei tedeschi, poi diventata una grande scrittrice, la quale disse: per la prima volta dopo l'8 settembre e dopo la nascita del Comitato di Liberazione Nazionale, la nascita di una resistenza, la parola patria, che sotto il fascismo ci era sempre sembrata falsa, ci aveva sempre dato noia, perché connessa alla retorica fascista e anche alla politica fascista di nazionalismo e di aggressione nei confronti degli altri stati, per la prima volta con la Resistenza abbiamo cominciato a sentirla qualcosa di nostro, perché abbiamo sentito che si poteva combattere per una patria che non fosse la patria fascista. Però poi molti dicono, però effettivamente il contributo militare della Resistenza è stato un contributo secondario. E qui io credo che bisogna adottare un altro sistema di valutazione. Innanzitutto ricordare che non c'è nessun paese in Europa dove i partigiani abbiano liberato il paese occupato dai tedeschi da soli. L'unico esempio che si può fare è quello della Jugoslavia, dove in effetti si è creato un esercito di liberazione popolare che è riuscito a scacciare tedeschi dal paese, ma anche lì è riuscito a farlo perché le sconfitte tedesche sul fronte orientale e l'avanzata dell'Armata Rossa ha fatto sì che i tedeschi non potessero concentrarsi nei Balcani per una repressione dell'esercito di liberazione jugoslavo, nazionale della Jugoslavia, e quindi in qualche misura ha usufruito delle grandi vittorie dell'Unione Sovietica sul fronte orientale. Ma su tutti gli altri paesi occupati dai tedeschi nessun esercito partigiano o gruppo di bande partigiane ha potuto mai intervenire, e anzi la Resistenza italiana rispetto alla Resistenza di altri paesi ha assunto una configurazione quanto più simile possibile a un esercito di liberazione nazionale, anche se non era nazionale, perché l'abbiamo detto, era molto locale, perché i CLN spesso non avevano nessun controllo reale sulle bande, però creare delle bande armate che in tutto il territorio dell'Italia centro-settentrionale occupavano militarmente zone importanti è una cosa che è avvenuta in Italia, ma per esempio non è avvenuta in Francia, dove davanti a un'occupazione molto più dura la Resistenza francese, ma chi era soprattutto una resistenza di sabotaggi, di spionaggio, ma non era una resistenza che creava gruppi armati che vivevano in clandestinità e attaccavano i tedeschi. Quindi dire che da soli i partigiani non hanno sconfitto i tedeschi è dire una cosa talmente ovvia da essere stupida, perché per sconfiggere i tedeschi c'è stato bisogno che si mettessero insieme 30 nazioni a combatterli e che anche venisse fatta un'alleanza, se vogliamo, innaturale tra l'Unione Sovietica comunista e l'Inghilterra e gli Stati Uniti, potenze democratico-liberali capitaliste, tanto innaturale che poi finito dopo la sconfitta della Germania siamo arrivati a quella che è stata definita la guerra fredda tra i due schieramenti antitedeschi, ma la Germania rappresentava una minaccia talmente forte per l'ordine costituito internazionale che questi paesi passarono sopra le grandi differenze, anche i grandi contrasti di interessi, per unirsi contro la Germania. Però detto questo, sostenere l'irrilevanza militare della Resistenza contrasta con almeno due elementi che dimostrano il contrario. Primo, i tedeschi erano ossessionati dalla presenza della Resistenza armata, talmente ossessionati che spesso soprastimavano la presenza e il numero di combattenti irregolari. perché, come sanno tutti i teorici militari, ma anche tutti i militari, un esercito che combatte in un ambiente ostile in cui deve non solo fronteggiare dei nemici regolari che avanzano e quindi c'è una linea del fronte sempre mobile, perché poi la Germania era sempre ritirata, a parte quando riuscì a consolidare il fronte sulle due grandi linee difensive che erano la linea Gustav prima della liberazione di Roma e poi la cosiddetta linea gotica dopo la liberazione di Roma. Ma devono fronteggiare, un esercito che deve fronteggiare non solo questo, ma alle proprie spalle un ambiente ostile in cui i propri soldati cadono in imboscate, in cui vengono interrotte le comunicazioni, le linee telefoniche, le strade non sono più sicure, è una situazione veramente molto difficile. Tant'è che per combattere questa situazione i tedeschi ricorsero soprattutto dal marzo del 1944, il momento diciamo di svolta è l'attentato, l'atto di guerra di Via Rasella del 23 marzo e la spietata rappresaglia alle fosse ardeatine del 24 marzo, ma da allora in poi fu un crescendo di ordini draconiani da parte del comandante in capo delle forze tedesche in Italia, il maresciallo Kessler, contro i partigiani e contro le popolazioni che li sostenevano. E si arrivò nell'estate del 44 e fino all'interruzione delle operazioni belliche per sfondare la linea gotica nell'autunno del 44 a una vera e propria politica terroristica nei confronti delle popolazioni nelle zone dove erano presenti i partigiani per evitare che si saldasse, diciamo, che il sostegno delle popolazioni potesse esplicarsi nei confronti dei partigiani. Con le più grandi stragi, Sant'Anna di Stazzema, Montesole e Marzabotto, che non furono rappresaglie come quella delle fosse ardeatine, cioè non erano la risposta ad azioni particolarmente pesanti dei partigiani, ma furono vere e proprie atti di terrorismo preventivo per fare terra bruciata attorno ai partigiani. Quindi questo incubo dei tedeschi nei confronti dei partigiani, che è stato dimostrato poi dall'analisi degli ordini che mandavano, che arrivavano dagli alti comandi alle varie vari reparti stanziati sul territorio nazionale, gli interrogatori ai quali i generali tedeschi furono sottoposti dopo la fine della guerra, soprattutto dagli inglesi che erano quelli che li detenevano in prigionia, dimostrano senza alcun dubbio che i tedeschi temevano molto i danni militari che i partigiani potevano fare. Ma c'è un ulteriore elemento. Quando gli alleati conquistano Roma, e la conquistano, ricordiamoci, senza che a Roma scoppi un'insurrezione della città, la resistenza a Roma è stata poca cosa, c'erano solo i GAP che appartenevano esclusivamente al Partito Comunista, poi per una serie di situazioni locali, tra cui la presenza anche del Parlato, e soprattutto dopo le fosse ardeatine, la resistenza romana dei GAP fu distrutta praticamente, e quando gli alleati i primi di giugno entrarono nella città, il Comitato di Liberazione Nazionale di Roma non ebbe la forza di creare un minimo di mobilitazione armata. Ma da lì in poi gli alleati cominciarono a chiedere esplicitamente l'aiuto delle formazioni partigiane in Italia centro-settentrionale. Dopo la presa di Roma del giugno del 1944, i tedeschi si ritirarono nelle prime settimane, nei primi giorni in maniera anche disordinata, poi in maniera più ordinata, con quella che fu chiamata una ritirata aggressiva, e il comandante in capo delle forze alleate, Alexander, in ben due proclami si rivolse ai patrioti che combattono tra Roma e la linea gotica, invitandoli a un'insurrezione generale contro i tedeschi, a colpire i tedeschi in tutti i modi per favorire l'avanzata alleata, facendo anche intravedere la possibilità che la guerra in Italia, grazie anche al contributo dei partigiani, potesse finire prima dell'inverno, che cioè potesse essere la presa di Roma e la ritirata tedesca l'inizio della definitiva sconfitta della Germania in Italia. E per fare questo gli alleati cominciarono a supportare la resistenza con lanci di materiali che furono fondamentali per un contributo importante delle formazioni partigiane, perché certo all'inizio le bande si armavano soprattutto con armi catturate magari alla Guardia Nazionale Repubblicana o alle caserme dei Carabinieri, ma queste non erano certo armi da guerra che potessero sostenere uno sforzo militare più intenso. E siccome gli alleati erano preoccupati soprattutto della sconfitta della Germania, consentirono ad armare le formazioni partigiane, anche quelle comuniste, nei confronti delle quali avevano ovviamente una maggior differenza, purché queste dimostrassero una forte attività militare contro i tedeschi. Poi certo, imponendo man mano che le città venivano liberate l'immediato disarmo delle forze della resistenza, tranne alcuni reparti che furono inseriti nell'esercito regolare o statunitense o inglese, continuarono a combattere con l'esercito regolare fino alla fine della guerra. E questo dimostra che gli stessi alleati avevano la concezione di quanto fosse importante l'attività militare della resistenza, se no non l'avrebbero certamente aiutata. E quindi direi che da questo punto di vista la partecipazione militare dei partigiani fu importante, anche se ovviamente poi lo sforzo per la liberazione dell'Italia l'hanno fatta gli eserciti che vi hanno combattuto. La campagna d'Italia è stata una campagna molto dura, anche perché le condizioni orografiche dell'Italia sono tali che non essendo di grandi pianure si combatte soprattutto colline, montagne, fiumi, torrenti. L'inverno del 43-44, del 44-45 furono molto duri, molto pesanti, freddo, pioggia e così via, quindi fu una campagna molto dura. Questo è dal punto di vista militare. Quanti erano i partigiani? Qui apriamo un problema. Difficile dirlo. Al momento dell'insurrezione nazionale, la cui data simbolo è il 25 aprile del 45, si calcola che siano stati circa 220.000, però di questi molti erano i cosiddetti partigiani dell'ultima ora, cioè quelli che negli ultimi giorni, visto quello che stava succedendo, l'esercito tedesco ormai allo sbando, gli alleati che avevano ripreso da marzo l'avanzata, decisero di passare dalla parte dei partigiani. Nel momento di più intenso combattimento e partecipazione le bande armate allo sforzo bellico, che è l'estate del 44, nel periodo che va dalla liberazione di Roma alla stabilizzazione del fronte sulla linea Cosica nell'ottobre del 44, si calcola che partecipassero circa 50.000 partigiani combattenti, che poi furono praticamente in parte furono costretti a smobilitare durante l'inverno, quando le operazioni militari furono interrotte, e poi certo riparteciparono allo sforzo bellico a marzo. Quindi diciamo che ci sarà stato, ma poi ci sono le fasi precedenti, le fasi successive, insomma era anche le bande, non erano un esercito regolare in cui il coscritto stabilito nel caserme non se ne può andare, a volte si tornava a casa, poi si ritornava sui monti. Diciamo che l'esperienza partigiana è stata comunque la più importante, la più imponente esperienza di un volontariato civile in campo militare dall'unità in poi, compresa l'unità. Cioè i volontari garibaldini, per dire, erano molto di meno. Quindi un'esperienza importante. Detto questo, c'è da aggiungere che, come ho detto fin dall'inizio, magari lasciamo spazio alle domande perché c'è un'ora che parlo, la resistenza che pur, come riconobbe De Gasperi, quando andò alla conferenza di pace a Parigi, come paese sconfitto, perché gli alleati non riconobbero mai all'Italia lo stesso ruolo che avevano riconosciuto alla Francia, ma giustamente l'Italia era stata alleata della Germania fino ad allora, e l'armistizio, il fatto che poi il re e Badoglio dopo un mese dichiararono la cobelligeranza dell'Italia nei confronti della Germania, e la resistenza non impedirono agli alleati di attuare le clausole dell'armistizio che vedeva nell'Italia un paese che si era arreso senza condizioni. E De Gasperi si presentò alla conferenza di pace però come esponente di un'altra Italia, dell'Italia che aveva combattuto contro il fascismo, e quindi questo contributo italiano contro il fascismo fu esaltato soprattutto a partire dagli anni 60, subito dopo la fine della guerra, poi scoppiò la guerra fredda, la presenza, diciamo, importante del Partito Comunista nella resistenza fece sì che poi le autorità, il governo, sì, non dico che non ricordassero la liberazione della resistenza, ma lo facevano in maniera molto in sordina, mentre chi puntava su questa commemorazione era soprattutto il Partito Comunista, che era stato nel 47 rimandato all'opposizione, tanto da dare l'impressione per tutto il periodo più duro della guerra fredda fino alla metà degli anni 50 che la resistenza italiana fosse stata quasi una resistenza esclusivamente comunista, come non fu, perché come vi ho detto, a parte la resistenza civile, le formazioni, anche considerando solo la resistenza armata, vi erano formazioni di tutte le colorature politiche e vi era un importante nucleo di formazioni autonome che non facevano riferimento a nessun partito. Ma anche quando, dopo il 1960, cioè fondamentalmente dopo il tentativo del Movimento Sociale di celebrare il suo congresso a Genova, città medaglia d'oro della Resistenza, e lo ricordo, l'unica grande città in cui le truppe tedesche si arresero non agli alleati ma ai rappresentanti del Comitato di Liberazione Nazionale, a Villa Migone. C'è ancora la scrivania dove è firmata la resa del comandante della piazza militare tedesca ai rappresentanti del Movimento di Liberazione Italiano. Ecco, dopo i fatti di Genova, con la creazione di quello che fu definito l'arco costituzionale che escludeva il movimento sociale, della Resistenza si è cominciato a parlare come grande momento di liberazione nazionale, anche andando in direzione opposta, come dicevo, cioè con una grande retorica sugli italiani che si erano liberati, scordando i limiti oggettivi della Resistenza e anche, come dire, le differenti opzioni che nel fronte resistenziale esistevano sul futuro dell'Italia. Nonostante ciò, nell'opinione pubblica italiana Resistenza e partigiani ha sempre suscitato, in una parte di questa opinione pubblica, ma in una parte consistente, una grande diffidenza, se non un'aperta ostilità. Voi considerate il fatto che in Italia non esiste un museo nazionale della Resistenza che celebri questo momento come momento di rinascita nazionale, tutto sommato un momento unitario, nonostante la, ripeto, differenza di posizioni delle forze in campo. E questo perché? È perché la Resistenza non è stata solo lotta degli italiani per liberare l'Italia dall'invasore straniero, cioè dalla Germania, che poi non si capisce bene, nel senso che la Germania era l'alleato, è stata anche lotta tra fascisti e antifascisti, perché i partigiani hanno combattuto non solo contro i tedeschi, ma hanno combattuto magari più spesso e anche con più intensità contro i fascisti della Repubblica Sociale Italiana, e si sono trovati davanti nei grandi rassegnamenti non soltanto i tedeschi ma i reparti della Repubblica Sociale Italiana. Questo è quello che gli storici indicano come guerra civile, un tema e una espressione che è stata spesso fraintesa. Io ricordo che quando il grande storico Claudio Pavone, che tra l'altro è stato in un certo senso mio maestro perché ha insegnato a lungo a Pisa, io mi ero già laureato quando lui arrivò, ma insomma la mia formazione a questi temi deve molto a lui. Quando ha pubblicato il suo libro fondamentale intitolato Una guerra civile, saggio storico sulla moralità nella Resistenza, ha trovato una forte opposizione non tanto negli storici di sinistra quanto nelle associazioni combattentistiche, in particolare nell'ANPI. Perché questo? Perché che la Resistenza fosse una guerra civile, nel senso una guerra che contrapponeva italiani fascisti, italiani antifascisti, era ben chiaro ai resistenti. Se noi prendiamo le corrispondenze, per esempio, degli azionisti torinesi del periodo resistenziale, utilizzavano in continuazione il termine di guerra civile. Lo utilizzava di meno il Partito Comunista, perché Togliatti, rientrato in Italia da Mosca nel marzo del 1944, aveva davanti agli atteggiamenti settari della maggior parte del partito, che non voleva collaborare con le forze moderate nella lotta tedesca, aveva imposto come linea quello dell'unità nazionale contro il fascismo, e il Partito Comunista aveva bisogno di accreditarsi come un partito democratico in un'Italia post-bellica, e quindi il tema fondamentale su cui aveva sempre insistito il Partito Comunista è lotta di liberazione nazionale, che è una lotta appunto interpartitica e così via. Ma insomma, durante i primi anni del dopoguerra, chi sosteneva che la resistenza era stata una guerra civile erano stati soprattutto i fascisti. Pisanò nelle sue opere l'aveva definito, ma definire la resistenza una guerra civile, e qui era secondo me il fraintendimento, non vuol dire mettere sullo stesso piano le due parti combattenti, vuol dire che appunto vi erano italiani che avevano deciso per vari motivi, non solo per un fraintendimento di quello che è l'onore di padre, ma a volte perché erano fascisti della prima ora, che erano ritornati a galla, di sostenere la Repubblica Sociale Italiana, e altri italiani che avevano deciso viceversa di sbarazzarsi una volta per tutte con la fine della guerra di qualsiasi, del fascismo e di qualsiasi residuo del fascismo. E quindi un fatto tecnico, direi, definita guerra civile, non è un'equiparazione tra le due parti. Questo, guardate, come quando si sostiene che i crimini di guerra non sono stati solo dei tedeschi, ma sono stati anche delle forze che li hanno combattuti. Verissimo, verissimo. Oggi gli storici considerano i bombardamenti a tappeto un crimine di guerra, perché colpiscono le popolazioni molto più di quanto colpiscano gli obiettivi militari. A parte il fatto che poi andando a vedere le carte delle strategiche del bombing group inglese piuttosto che di quello statunitense, si utilizza spesso il termine di terrorismo, cioè lo scopo del bombardamento è terrorizzare le popolazioni per imporre, per costringerle a imporre la pace ai loro governanti, che è una cosa assurda, perché come si può pensare che delle popolazioni che erano state soggette a dittature così dure potessero trovare la forza di imporre a Hitler con Mussolini la resa di Germania, la Germania è stata distrutta dai bombardamenti e la resa è avvenuta solo quando Armata Rossa e alleati si sono incontrati a Berlino. Però è indubbio che quel tipo di condurre la guerra è un modo che è un crimine, oggi considerato un crimine dalle convenzioni internazionali. Così come è stato un crimine gli stupri di guerra nei confronti delle popolazioni tedesche, alle quali si sono, di cui sono stati responsabili molti soldati dell'Armata Rossa, il fatto che avevano alle spalle naturalmente quello che i tedeschi avevano fatto durante l'occupazione dell'Unione Sovietica, ma questo non toglie il fatto che stuprare delle donne è un crimine, così come possiamo dire che sia stato un crimine il 1,5 milioni di tedeschi che dopo la fine della guerra sono morti di fame o di inedia durante i trasferimenti forzati delle popolazioni a seguito del cambiamento della carta geografica d'Europa alla fine della guerra. 1,5 milioni di tedeschi hanno dovuto lasciare le loro case e sono, no, di più le hanno dovuti lasciare, ma 1,5 milioni sono quelli che gli storici pensano siano morti durante questi trasferimenti forzati. Ma dire questo non vuol dire mettere sullo stesso piano le ragioni storiche degli alleati con le ragioni storiche dell'asse nazifascista. Vuol dire che purtroppo in una guerra totale come quella che è stata scatenata dalle potenze dell'asse non c'è più nessun limite, nessun rispetto per quelle norme di diritto internazionale che dovrebbero tutelare le popolazioni. Allo stesso modo dire che la resistenza è stata una guerra civile tra fascisti e antifascisti, non vuol dire, dal punto di vista storico, mettere sullo stesso piano le due parti in no. Gli antifascisti propugnavano una causa che era la fine del fascismo, cioè di un regime totalitario. Poi che naturalmente i fascisti che sono rimasti, ricordiamoci che il Movimento Sociale Italiano, che era l'erede di quell'esperienza, non ha avuto mai alle elezioni politiche meno di 1,5 milioni di voti. Quindi poi c'era un gruppo consistente, minoritario, ma consistente di italiani che era rimasto fascista. C'era un gruppo di italiani i quali non erano né fascisti né antifascisti, ma erano coloro che aspettavano che la guerra passasse, che fossero solo rialleati a morire per liberare l'Italia dall'occupazione tedesca, e che dopo la guerra ritennero la loro posizione di attesismo quella più giusta. Furono gli italiani che andarono poi a ingrossare le file di quel movimento che si chiamò dell'uomo qualunque, da cui anche il termine di qualunquismo. Per cui la resistenza, ricordando un periodo di divisione dell'Italia, non ha goduto in un'Italia moderata di buona fama. Qualcuno disse arriverà il vento del nord, e invece al nord è arrivato, non dico il vento del sud, perché anche al sud ci sono state lotte contro i tedeschi nel breve periodo dell'occupazione del sud, le lotte contadine, ma indubbiamente l'esperienza della resistenza armata, per come ve l'ho descritto qui, è una cosa che riguarda soprattutto il nord, è una parte del centro, una parte, in pratica quella di sopra della linea costiera. Anche in Toscana, a parte la provincia di Massa Carrara, la resistenza è finita con l'estate del 44, e questo ha fatto sì che ancora oggi sulla resistenza si discuta, e accanto alla sottovalutazione del fascismo, di cui appunto si sente dire ormai da tempo che non era poi così male, che se non avesse fatto quei errori iniziali di cui vi ho parlato all'inizio sarebbe andato bene, vi è una parte dell'opinione pubblica che continua a dire che i partigiani erano sbandati, venitenti alla leva, vigliacchi o peggio ancora criminali, ladri che volevano approfittarsi della situazione per rubare, per arricchirsi. E quindi su questo io credo che sia un momento, queste considerazioni che però vengono da molto tempo. Ricordiamoci che per tutto il periodo dei governi Berlusconi non ha mai partecipato alle celebrazioni del 25 aprile. Che sia un elemento della perdita di memoria di questo paese, di quello che è stata l'esperienza fascista, dell'avanzata di un qualunquismo e di un neonazionalismo, che di tutto questo faccia parte anche la polemica sulla resistenza, rispetto alla quale poi un ruolo l'avete voi come ANPI, cioè come associazione di tipo politico che difende i valori della Costituzione e della resistenza, e un ruolo l'abbiamo noi come rete di istituti storici che invece la resistenza la studia per quello che è stato, senza retorica, senza false pudori di affrontare anche momenti difficili e non esaltanti della resistenza, ma inquadrandola in quello che è stato, cioè il più importante movimento di volontari italiani che si è impegnato a grave rischio della propria vita, 40.000 sono i partigiani morti, non esattamente pochissimi, per impegno civile per il proprio paese. Vi ringrazio. Ringraziamo il professore per la bellissima introduzione. Un'introduzione anche alle domande, perché interessanti. Probabilmente ci saranno anche delle domande da fare. Ecco, rompiamo il ghiaccio subito con Paolo Fossati. Per approfondire dei temi che ci stanno a cuore, nel senso che sicuramente, come anche tutti gli iscritti, hanno a cuore i valori della resistenza e della Costituzione, come è stato detto, però al di là di, dei grandi valori della resistenza in cui noi ci conosciamo, certamente ci sono anche dei problemi aperti su cui vale la pena discutere e di cui oggi in parte abbiamo anche discusso. Che le domande sarebbero tante. Concentro su una, che è quello del tema della guerra civile, che è uno di quei temi appunto aperti di cui si discute. Personalmente sono assolutamente d'accordo sulla definizione di guerra civile, nel senso che non fu certamente solo una guerra di liberazione da un occupante straniero e da un suo stato fantoccio, nel senso che viene in mente il film 900 di Bertolucci, dove gli italiani che stavano con i fascisti o erano sadici o erano solamente gente interessata a prezzolata. No, c'era anche un grande consenso della popolazione per questo tipo di regime. Però la mia domanda è, non è guerra civile un termine che sicuramente condivisibile, però non porta con sé troppo facilmente un concetto di amnistia che è sempre legato alle guerre civili? Voglio dire, la guerra civile è la fazione A contro la fazione B, dopodiché si suppone che ci debba essere un'amnistia, un oblio, perché la fazione A insieme alla fazione B costruiscano il nuovo Stato. Esempio, in Ruanda i Tutsi contro gli Hutu, dopodiché quando la guerra finisce, anzi lo Stato favorisce l'oblio, perché anzi se si vanno a rimarcare quelle divisioni si rischia di ricadere quelle divisioni e di riproporre la guerra. Ecco, in Italia una considerazione di questo tipo non ha favorito troppo un'amnistia forse troppo generale, troppo facile, per cui addirittura alcuni criminali di guerra, fra tutti i graziani, hanno beneficiato di un'amnistia che dopo poco tempo sono stati liberi addirittura a far parte della vita politica del nostro paese. Sì, se ci sono altre domande. Un'altra domanda. Legata al concetto di guerra civile che presumibilmente dal punto di vista dello studio, dell'analisi, in effetti probabilmente è stata la guerra civile, però il termine guerra civile la si accosta inevitabilmente a due parti opposte, politiche o etniche o comunque tutte e due legittime. Non è che il termine guerra civile sta un po' stretta a una parte che comunque non era legittima perché era uno Stato, prima autoritario, poi totalitario. Ecco, il primo punto è questo. Il secondo punto è legato un po' alla storia italiana, perché in pratica alcuni ambienti erano legati o direttamente, anche dopo la liberazione, o indirettamente con il fascismo. È legata anche alla domanda che ha fatto Paolo, cioè nel senso dei fascisti non è che, a parte l'amnistia che presumibilmente Togliatti l'ha fatta per evitare probabilmente delle stragi, ma in una parte dei governi, quando a caso nel 47 è stata fatta proprio un'azione politica per escludere E comunque lo stesso fascismo non è stato trattato da tutto il fronte di liberazione nazionale e da tutti i partiti come il nemico da superare, tant'è vero che nel 1960, dove era Tambroni, c'è stata questa cosa qui. Quindi questa storia, la domanda è questa, un po' particolare, nel senso che mentre la Germania ha fatto i conti con il nazismo, in Italia oggi c'è una sorta di maggioranza afascista, cioè che non si pronuncia sul fascismo, che comunque lo giustifica. Non è un elemento che si aggiunge a questo, che oggi abbiamo delle leggi italiane firmate da, per esempio, da Mussolini, che legittima comunque il valore del fascismo, mentre in Germania non ci sono leggi, la Germania ha fatto i conti con il nazismo. Probabilmente in Italia dobbiamo fare i conti con la storia del fascismo, anche come Stato italiano, come istituzione. Ecco, un po' articolato comunque, grazie. Ringraziamo Giuseppe Passerini, mi ricordo di qualificarvi. Sì, scusami. Grazie. Io sono Vittorio Mancuso, sono appassionato di storia e ho vissuto parte di quegli anni, quindi le cose che ho sentito, molte di quelle cose che ho sentito le ho vissute anche sulla pelle mia e della mia famiglia. Devo dire comunque, volevo fare una piccola obiezione al professore che diceva che gli italiani hanno cominciato a togliere la loro adesione al fascismo quando ci sono state le sconfitte. Direi più che quando ci sono state le sconfitte, sono state tante, queste sconfitte hanno determinato l'avvento di una miseria. Non c'era da mangiare, non c'era da vivere. E la gente è cominciata a rendersi conto della stupidità di essere stata zitta. Se torniamo precedentemente, parliamo dei grossi responsabili che ci sono stati, che oltre al Duce sono stati anche Badoglio e anche il Re, il quale al momento buono ha tagliato la corda piantando l'Italia nelle condizioni in cui si trovava. Ma quando c'è stato il Benito Matteotti, ci sarebbe stata la possibilità, lì il fascismo era in difficoltà, soltanto che non c'era coesione tra i partiti e i rappresentanti antifascisti. Sì, c'è stata la ritirata sulla Ventina, ma non ha risolto niente. Superato quel momento di difficoltà, ha ripreso forza e non c'è stato più niente da fare. Poi purtroppo devo dire una cosa, che gran parte della popolazione è stata molto, come succede adesso, ha accettato come se fosse un fatto piovuto dal cielo, il fascismo. E vedo che gli stessi errori si stanno ripetendo adesso e li attribuisco molto all'ignoranza della storia, totale ignoranza della storia e anche alla stupidità. Perché si accettano certe promesse, certe cose che non stanno in cielo e in terra, come se fossero fine. Se si conoscesse quello che c'è stato, si continua a dire che la storia non insegna niente, ma la storia non insegna niente perché non ci si voglia occupare. Io ho sempre la mia teoria, che renderei obbligatorio nelle scuole lo studio del libro di Pinocchio, non come favola, ma come fatto più profondo. Esiste il paese dei capacitudini, e quindi i citrulli ce ne sono tanti che continuano ad accettare passivamente tutte le stupidaggini che vengono presentate. E questo mi fa paura, perché avendo provato cosa significa vivere in quelle condizioni, mi sta spaventando vedere dove è ridotta attualmente, dove è iniziato attualmente il nostro paese, se la gente non si sveglia per tempo. Allora, torniamo sul tema della guerra civile. Dire che parlare di guerra civile vuol dire che si tratta di due parti legittime entrambi, io non direi, cioè quando c'è una guerra civile c'è sempre poi un giudizio su quale delle due parti diciamo ha ragione tra virgolette, quale non. Pensate alla guerra civile americana, che non fosse solo il tema dello schiavismo, della libertà individuale, ma lì dentro ci fosse un altro tema molto più grande, cioè il diritto degli stati di staccarsi dalla federazione è un altro discorso, ma insomma fondamentalmente, anche se gli storici statunitensi hanno poi complicato il quadro, nessuno sostiene che chi combatteva per la schiavitù era dello stesso livello etico, morale, politico e storico di chi combatteva contro la schiavitù. Quindi questo non è vero. Casomai un'altra obiezione si potrebbe fare al tema guerra civile, che guerra civile vuol dire due stati, uno stato la cui sovranità è contesa da due schieramenti opposti dentro quello stato, dentro quella nazione, che si combattono uno contro l'altro, la guerra civile americana. Ora, nel caso italiano, da un lato abbiamo il regno del sud, il re Badoglio, poi dopo la liberazione di Roma sostituito dai governi Bonomi di unità nazionale, ma già dopo la svolta di Salerno entrano nel governo Badoglio i rappresentanti dei partiti, che in effetti ha una scarsissima influenza su quello che succede a nord della linea occupata, nell'Italia occupata dai tedeschi. Sì, viene creato un esercito, il Corpo Italiano di Liberazione, che viene utilizzato in alcune operazioni militari, ma fondamentalmente non è poi così attivo da dire che abbia contribuito effettivamente in maniera notevole allo sforzo bellico. Dall'altra abbiamo uno Stato, la Repubblica Sociale Italiana, che, guardate, nonostante venga considerato uno Stato fantoccio, la cui legittimità poi dopo la guerra non è stata riconosciuta, però aveva invece una sua corposità statale che gli derivava dal fatto che, bene o male, operava su un territorio in cui poi, certo, c'era l'occupazione tedesca e senza l'appoggio tedesco questi sarebbero scomparsi, ma tutto l'apparato amministrativo dipendeva ancora da questa. Tutti gli impiegati dello Stato che operavano a nord di Roma, diciamo di quel livello lì, o a nord della linea gotica, e hanno continuato a fare riferimento a una struttura burocratica amministrativa che apparteneva alla Repubblica Sociale Italiana. E infatti gli storici negli ultimi decenni hanno ridato consistenza a questo Stato che sembrava solo un piccolo staterello fantoccio, e anche sui tentativi assurdi, utopistici, ma che c'erano, di ricostruire un'autonomia nel caso avesse vinto la Germania nei confronti dell'alleato tedesco. Ora, la partecipazione di questo Stato alla lotta antipartigiana è stata molto più attiva di quanto non sia stata la partecipazione del Corpo Italiano di Liberazione alla guerra antitedesca, perché ovunque i reparti della Repubblica Sociale hanno affiancato quelli tedeschi nei grandi rastrellamenti. Non solo, ma le strutture politiche della Repubblica Sociale hanno avuto una funzione di repressione molto forte nei confronti dei partigiani, nella caccia agli ebrei e così via. Quindi, da un lato abbiamo comunque un abbozzo di struttura statale funzionante, dall'altro abbiamo dei gruppi armati che, seppur connessi ai comitati di liberazione nazionali, dipendenti formalmente dal Corpo Volontari della Libertà, non riescono mai a arrivare a una dimensione parastatale paragonabile a quella della Repubblica Sociale. Cioè, quello che voglio dire è che in questa guerra civile indubbiamente lo squilibrio di potere a favore della Repubblica Sociale era particolarmente forte, particolarmente elevato. Questo va detto dal punto di vista storico. Però resta il fatto che poi abbiamo gruppi armati da un lato e gruppi armati dall'altro che si fronteggiano, e se noi andiamo a vedere le memorie partigiane, quello che, scusate, che si scriveva allora, insomma, di volta in volta prevale la guerra contro di liberazione o prevale la guerra civile, oltre all'altra guerra che è quella di classe, cioè che prevale il fatto che spesso i fascisti erano sostenuti dai padroni, cioè da coloro che nel primo dopoguerra li avevano già sostenuti. Del resto, quello che succede subito dopo la liberazione, cioè all'incirca 10.000 persone uccise in regolamenti di conti immediati da parte delle forze partigiane, non tutte erano fasciste, a volte ci sono finiti regolamenti di conto di tipo personale, però indubbiamente alle spalle, nella maggior parte dei casi, si trattava di fascisti, dimostra che una guerra civile effettivamente c'è stata e ha avuto quell'epilogo lì di cui io come storico non mi scandalizzo, nel senso che dopo tutto il potenziale di violenza che era stato suscitato dalla Repubblica Sociale nel periodo dell'occupazione tedesca, una reazione di quel tipo lì era una reazione, non dico positiva, ma comunque che si può comprendere, tant'è che furono immediatamente costituite queste forme di giustizia che erano politica ma istituzionalizzata, le corti di assisi straordinarie per processare i reati di collaborazionismo, furono anche il tentativo di istituzionalizzare una domanda di giustizia che fino ad allora però aveva assunto i caratteri spesso di una vendetta brevinante, cioè squadre armate che prelevavano delle persone e le facevano fuori. L'amnistia è un altro problema ancora, cioè dopo che succede cose come quelle successe nell'ultima guerra mondiale, un'amnistia prima o poi è indispensabile, cioè bisogna pure andare avanti. Ricordiamoci che non è solo in Italia il fenomeno del collaborazionismo. In Italia io non lo chiamerei collaborazionismo, qualcosa di più, perché comunque la Repubblica Sociale, come ho detto, ha una sua dimensione di statualità importante, anche perché è l'erede comunque del ventennio fascista. Ma anche in altri paesi occupati dalla Germania, lasciando perdere la Francia, che poi è riuscita a far dimenticare la Repubblica di Vichy perché c'è stato un personaggio come De Gaulle che ha imposto la narrazione di una grande resistenza nazionale francese all'occupante tedesco, ma in altri paesi ovunque vi sono stati dei collaborazionisti locali a favore dei tedeschi, e ovunque a un certo punto è scattata la misura, perché non si può, insomma, per ricostruire a un certo punto bisogna chiudere i conti, chiudere il libro dei conti e da quel punto di lì guardare avanti. Il problema italiano è che l'amnistia è avvenuta forse troppo presto, giugno 1946, ed è avvenuta con meccanismi giuridici di cui Togliatti non ha colpa, perché l'amnistia Togliatti prevedeva che venissero escluse alcune categorie, per esempio coloro che si erano resi colpevoli di atti di particolare efferatezza, ma lì ha prevalso la continuità dello Stato, nel senso che l'amnistia è stata poi applicata da giudici, e in particolare dai giudici di Cassazione, che si sono messi, che erano gli stessi, che poi spesso gli stessi che erano sotto il fascismo, e che si sono messi a disquisire, per cui per esempio torture che prevedevano scosse elettriche o violenze carnali nei confronti di donne non venivano considerate particolarmente efferate, solo efferate, per cui quei torturatori lì sono stati amnistiati, o per cui per esempio per quanto riguarda personaggi del fascismo sono stati condannati a morte e sono stati giustiziati Koch, che era il capo di una famosa banda di parapolizieschi che ha operato prima a Roma e poi a Milano, e Caruso, che era il questore di Roma, ma Tamburrini, che era il capo della polizia della Repubblica Sociale a Roma, che era quello che poi aveva ai suoi ordini sia Koch che Caruso, se l'è cavata con un anno di carcere e poi è stato amnistiato. Allora, il problema è come viene applicata l'amnistia, e in Italia è stata applicata in maniera particolarmente selettiva, perché poi nei primi anni, nei primi mesi dopo la liberazione, le corti di assise straordinarie hanno pronunciato anche condanne a morte, alcune sono state eseguite. Le ultime condanne a morte eseguite in Italia sono state eseguite dal 45 al 46, meno di quelle pronunciate in Francia, però sono state eseguite, ma hanno colpito a caso, direi, cioè hanno colpito persone che effettivamente si erano macchiate di crimini gravi, ma persone che si erano macchiate di crimini ancora più gravi sono state invece liberate. E questo è il tema della continuità dello Stato, cioè il fascismo è caduto, ma soprattutto le strutture amministrative e politiche che avevano funzionato sotto il fascismo spesso hanno continuato a funzionare anche dopo, nelle persone, magistrati, poliziotti e così via. La Germania ha fatto i conti col fascismo, l'Italia no. Starei attento a queste generalizzazioni. Guardate, la Germania ha cominciato a fare i conti veramente con il proprio passato solo a partire dagli anni 60. Nel primo periodo, nel periodo della denazificazione gestita dagli alleati, con i vari processi di Norimberga, i processi per crimini di guerra, la reazione dell'opinione pubblica tedesca è stata nella maggior parte una reazione negativa: giustizia dei vincitori, la colpa non è nostra, era solo di un piccolo manipolo di pazzi che erano Hitler e i suoi accoliti, giustificazione o negazione dei gravi crimini commessi e così via. E solo a partire dagli anni 60, quando hanno cominciato a celebrarsi alcuni processi, per esempio per Auschwitz, per le guardie che gestivano Auschwitz, che la situazione è cambiata, e poi soprattutto è cambiata col 68, perché in Germania una delle caratteristiche del 68 tedesco da parte dei giovani è stato chiedere ai propri genitori conto di quello che avevano fatto sotto il nazismo, di cui non si era parlato. Non si era parlato perché poi la Germania occidentale era stata investita da una forte ondata di sviluppo economico, quindi si era cominciato a ricostruire, si era stato molto meglio. E i giovani invece hanno cominciato a chiedere ai genitori: ma voi che facevate in quel periodo? E in Germania Est è ancora peggio, perché in Germania Est il fatto che ormai era diventato uno Stato comunista, tutta la colpa era della Germania Ovest, che è veramente un'assurdità, perché era la Germania nel suo complesso che aveva sostenuto Hitler. Quindi non è vero. È vero, peraltro, che dopo la Germania ha fatto dei conti più stringenti, ma ricordiamoci anche ora che i crimini commessi dalla Germania sono incomparabilmente più gravi di quelli commessi dal fascismo. Ricordiamoci che il tema dell'Olocausto ha molto poi investito la società tedesca, ma anche lì vi sono state, vi sono ancora tendenze, non dico negazioniste, ma che considerano la violenza tedesca semplicemente una replica, e una replica, diciamo, autodifensiva alla violenza bolscevica, per cui secondo alcuni autori c'è stata una cosa che si chiamava in Germania la questione storica, il dibattito storico. Un autore come Ernest Norte diceva che prima sono nati i gulag e poi sono nati i lager come risposta ai gulag. Quindi tendenze nell'opinione pubblica di giustificazione e di minimizzare le responsabilità tedesche sono ancora presenti, anche se in misura molto minore. In Italia la situazione è particolarmente confusa dal punto di vista giuridico. Vorrei leggervi una sentenza recente, mi scrive un amico avvocato di Pavia, si chiama Marco Sommariva, è anche membro del NAPI di Pavia, che è gravissima la sentenza emessa nel primo pomeriggio, lui mi ha scritto martedì, di oggi, dalla settima sezione bis del Tribunale di Milano, presieduta dalla dottoressa Mariangela Vita, che ha mandato assolti perché il fatto non sussiste, tre neonazisti che il 24 aprile del 2016 avevano al campo 10 del cimitero maggiore non solo salutato romanamente e gridato il motto nazista sia gay, ma indossato divise con fregi dell'SS ed esposto il tavolo dell'associazione combattenti 29esima divisione granatieri Waffen-SS, il tutto documentato in un video che evidentemente non è stato neanche visionato, così come non è stato dato credito alla deposizione di alcuni funzionari della Digos che hanno testimoniato delle esposizioni di spille con la svastica sui giubbotti e sui cappelli. La soluzione è giunta nonostante gli imputati abbiano apertamente dichiarato di riconoscersi, virgolette, nell'ideologia nazionalsocialista. Sconcertante anche il comportamento del pubblico ministero, la cui unica preoccupazione è sembrata principalmente essere che fossero presto restituiti agli imputati il lavaro e il berretto con il simbolo dell'SS sequestrato a suo tempo. Con questa sentenza si legittima dunque l'esibizione in luoghi pubblici di emblemi del Terzo Reich e dell'SS, un corpo che fu considerato criminale a Norimberga. Poi bisognerà vedere la sentenza, ma insomma questo è il clima che c'è oggi in Italia nella magistratura. Per cui in pratica queste vengono considerate espressioni della manifestazione della libertà di pensiero e se non si dimostra che sono funzionali alla ricostruzione del partito fascista, ormai i giudici assolvono. In Germania questo non sarebbe possibile perché la sola esposizione di simboli del nazionalsocialismo è punita penalmente. Peraltro in Germania la Corte Suprema di Karlsruhe, nell'equivalenza della nostra Corte Costituzionale, varie volte ha negato lo scioglimento d'autorità di gruppi politici che si rifacevano al neonazismo, quindi ovunque la situazione è molto complessa. Infine, sconfitta e miseria, sì, le due cose sono collegate ovviamente, è chiaro che il peggioramento della situazione di vita è stato fondamentale. A Roma negli ultimi mesi prima della liberazione la razione di pane era scesa a 100 grammi al giorno a persona, non si trovava nient'altro. praticamente. Però la miseria era il prodotto delle sconfitte, perché se l'Italia avesse potuto saccheggiare i paesi occupati, portare in Italia i prodotti che servivano alla alimentazione, la popolazione non gli avrebbe trovato niente di male. Tenete presente che in Grecia l'Italia, nella parte controllata direttamente dall'Italia, ha portato avanti politiche della requisizione così dure che è stata provocata una carestia con una morte di circa 10.000 cittadini greci. Questo per dire appunto che poi non è che certe cose non le facessi. So che a quel punto avevamo perso da tutte le parti, non c'era niente da per nutrire la popolazione. Questo naturalmente ha contribuito pesantemente alla crisi del fascismo. E l'ignoranza della storia, sa, lei consideri che ormai storia si insegna 2 ore alla settimana in tutte le scuole superiori, tranne il liceo classico dove sono 3, e che gli ultimi programmi ministeriali prevedono che in queste 2 ore si debba fare anche quella che un tempo si chiamava educazione civica, che però è molto varia, perché c'è proprio oggi, leggevo, c'è in discussione alla Camera un disegno di legge che prevede che nell'educazione civica ci sia la lotta al bullismo, le tematiche ambientali e cose di questo genere, che vanno benissimo, per carità, ma che certo non hanno a che fare con la conoscenza storica del passato. Quindi io ormai ho smesso di credere che la scuola possa essere, cioè potrebbe, ma in queste situazioni certo non svolge un ruolo anche di consapevolezza di quello che è successo nel passato, con le minimizzazioni di cui abbiamo parlato e che ritornano oggi presenti. Noi abbiamo un Parlamento in cui ormai da molte legislature siede una Mussolini che non fa che ripetere che suo nonno era un grande uomo e che addirittura ultimamente ha minacciato di querela chi sosteneva che era un criminale di guerra o un criminale di guerra. Io spesso ho sentito dire che avremo bisogno dell'uomo forte. Lasciamo stare, non si conosce la storia passata, ma quello che succede in Venezuela, quello che è successo in Cile, quello che è successo in Argentina, quello che è successo con la regina dei colonnelli, eccetera. Questi dovrebbero essere a conoscenza, perché sono notizie che arrivano con i giornali, con la televisione, ma proprio ci si mette i paraocchi davanti, si finge di niente e si dice tanto a me non interessa, si arrangiano. E queste poi sono le conseguenze che ci godiamo. Rigullone, cioè dell'Ambra Italiana. Volevo fare una domanda un po' provocatoria, insomma, per carità, in senso buono. Io ormai ci troviamo quasi a dover festeggiare, come vuol dire, il secolo del fascismo. Questo dittatura è durata solo 20 anni, noi ce ne siamo liberati da 70, ma purtroppo ne siamo ancora impregnati. Mi viene il dubbio, insomma, che o loro sono stati molto bravi o noi qualche cosa abbiamo sbagliato, insomma. E non so, mi piacerebbe sapere anche il suo giudizio. Luca Frigeri, non sono iscritto all'ANPI, sono qui perché il tema mi interessava. Io avrei 2 domande collegate un po' tra loro che tornano al tema dell'8 settembre, alle 2 interpretazioni, quella di morte di patria, oppure quella, diciamo così, l'idea che sia rinata dopo l'8 settembre una patria con tutti i valori repubblicani, per cultura della lotta, l'altra di. Penso che favore sposi abbastanza la seconda tesi. Le mie domande sono queste. Io mi chiedo, patria cosa vuol dire? Se patria vuol dire davvero avere, sentire un'entità comune fondata su dei valori veri e propri, la prima domanda è: morte di Patria, muore qualcosa che è vissuto? Io mi chiedo se sotto il fascismo prima noi abbiamo avuto davvero una patria. Io mi chiedo, mi viene a dire che forse non c'è mai stata nessuna patria, perché l'identità che il fascismo aveva creata, sappiamo bene che era un'identità costruita su luoghi comuni, su frasi fatte, sulla retorica, e non su una vera identità. Quindi questa e l'altro passaggio però anche sulla seconda linea, cioè il fatto che davvero sia nata una nuova patria condivisa, quindi una nuova identità davvero condivisa da tutti quanti. L'idea che io mi sono fatto è che un pezzo che non ha reso possibile davvero l'affermarsi di una patria nuova sia stato la debolezza che ha avuto il Partito di Azione all'interno della Repubblica dopo il 45, perché diciamo schiacciata sotto le forze comuniste e quelle cattoliche, entrambe non particolarmente vicine al pluralismo democratico come valori fondativi. Ecco, questo io penso che è stato un grosso vulnus nel nostro paese che è ancora oggi lì, insomma. Sono l'impiego dell'Ampi Monguzzo. La mia domanda era, vuole essere questa. Lei prima parlava del fascismo come praticamente sostenuto dalla classe ambiente, diciamo. Oggi invece vediamo che, a parte la struttura fascista che si sta improntando per la negazione dei diritti altrui, lei cosa ne dice del fatto che il braccio dei fascisti sia praticamente né più né meno che il braccio della malavita, della connivenza con gente di malaffare? Sul comportamento degli alleati, gli alleati sono arrivati in Italia perché non si deve resistere. Come mai? Io quando ero ragazzo mi accompagnavo spesso con mio padre, che era del 1909, e qualche volta mi capitava di andare a Foggia di Siena, che lui si incontrava con persone della sua età che avevano fatto la guerra, mio padre ha fatto sia la campagna d'Africa che quella della Russia, e parlavano della guerra. Io sentivo parlare a queste persone proprio di Foggia, perché io sono mio padre era di Candela della provincia di Foggia, mentre Foggia, diciamo, questi amici di mio padre che erano proprio di Foggia, quando si usciva sull'argomento della guerra, io avevo 16 anni, 15 anni allora, dicevano: ma questi alleati hanno fatto più danni dei tedeschi e dei fascisti a Foggia, perché c'è un bombardamento a Foggia, è stato fatto alla fine, quando i tedeschi a Foggia non c'erano più. È successo un comportamento che addirittura i fuggiati si andavano a rifugiare nella stazione di Foggia, dove c'erano, diciamo, il sottoscalo, si rifugiavano quando c'erano le sirene che suonavano. E lui è successo proprio che nella stazione erano parcheggiati dei vagoni cisterne pieni di benzina. La benzina è andata a finire dentro il sottoscalo e lì è successo una carneficina di gente bruciata viva. E questi signori dicevano: ma che significa, perché questi alleati si sono comportati così a venire a radere a suolo Foggia quando i tedeschi a Foggia non c'erano più? Ecco, questo volevo sapere, per quale motivo gli alleati hanno avuto questo comportamento di andare a bombardare a tappeto zone dove i tedeschi non c'erano più, perché il sud Italia, per dire, i tedeschi oramai salivano su. Perché questo comportamento? Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto, professore, grazie a lei, grazie ad Ampi, provinciale, quello di Laviano e agli altri, quello di Muguzzo, gli altri, che avete avviato questa serie di incontri per cercare di approfondire quello che è stata la resistenza. Vi vorrei agganciare un attimo quello che diceva Angelo. Ah, io mi chiamo Michele Vengo, sono Michele Bianchi, faccio parte dell'Ampi di Laviano, credo. E Foggia, io non lo sapevo fino a pochi anni fa, quando ho avuto modo di approfondire giù a Foggia, insomma, a chiesa originario di là della provincia di Foggia, che nel luglio-agosto del 43 ci sono stati bombardamenti su Foggia, l'hanno distrutta, e ci sono stati, non so chissà questo dato, 25.000 morti, 25.000 morti. Tanto che poi molti si sono rifugiati, quelli che sono scappati, insomma, non so quanti abitanti avessero la città in quel periodo, nella provincia, molti sono poi andati in altre zone d'Italia, insomma. Questa è stata una cosa veramente tremenda che ho avuto modo di approfondire e di conoscere, insomma. Professore, lei mi ha fatto riflettere su una cosa molto importante, di quanto la resistenza non è stata soltanto quella armata, quella fatta sulle montagne, soprattutto qui a nord e in alcune zone al centro Italia, ma la resistenza delle donne che hanno aiutato i militari, i militari prima ancora, che hanno scelto di non far parte, arruolarsi, cioè entrare a fare la guerra con i tedeschi e poi entrare nella Repubblica di Salò. E la ringrazio e ringrazio appunto di questi incontri. Altri? Allora io volevo chiedervi, la resistenza fu solo al nord, perlomeno dopo Cassino, in pratica, perché è lì dove c'erano i gruppi SAP, GAP e partigiani. Però questa resistenza, proprio per lo sbandamento dei militari, è stata fatta anche da molti meridionali che comunque si sono aggregati alla resistenza che veniva fatta qui al nord. Ecco, la mia domanda è: quanto ha contribuito all'unità d'Italia, perlomeno alle conoscenze tra i diversi gruppi italiani, la resistenza nel nostro paese? Allora, vado in ordine. Fascismo oggi. Allora, cerchiamo di essere chiari. Se per fascismo oggi riteniamo la possibilità della rinascita di un regime con le caratteristiche del fascismo, io devo dire che sono assolutamente contrario a questa definizione, nel senso che ritengo che quelle caratteristiche che erano proprio di quell'epoca oggi non si possono dare. Ritengo che l'Italia abbia una costituzione democratica, un sistema di pesi e contrappesi, una magistratura ancora indipendente, ancorché, come abbiamo visto spesso, provvide a forse sottovalutare determinate manifestazioni, un regime di pluralismo nell'informazione, un regime di libertà politica, insomma, il regime fascista è morto e non sta rinascendo. Però, se intendiamo che alcuni elementi che nel fascismo hanno giocato un ruolo importante, in particolare nazionalismo estremo, si ridiffondono oggi perché vengono fatti propri da alcune forze politiche, in particolare la Lega, oltre che poi naturalmente il gruppo di Fratelli d'Italia, che invece poi si rifà anche più pienamente a quell'esperienza, e allora questo sì che secondo me è un elemento reale su cui riflettere. Lo stesso razzismo che è insito nel nazionalismo è un po' diverso, perché mentre il fascismo ha dovuto trovare, ha dovuto trovare un campo espiatorio che era una comunità di ebrei molto ristretta, erano 40.000 in tutta Italia, perfettamente integrati, patriottici, risorgimentali, perché poi erano grati al re di Sardegna, che poi è diventato re d'Italia e aveva definitivamente emancipati alcuni fascisti, e ha dovuto trovare, per rafforzare il nazionalismo interno, un capo espiatorio di tipo etnico-razziale, di razzismo biologico. Oggi il razzismo è qualcosa di diverso, il prodotto di fenomeni migratori che sono fenomeni mondiali, che devo dire le classi politiche non riesce a gestire in maniera intelligente, perché ho sentito finalmente dire anche da persone di sinistra: abbiamo sbagliato perché siamo stati bravi nell'accoglienza ma molto scarsi nell'integrazione, e questo poi crea fenomeni di razzismo nei confronti degli immigrati, che si collegano però a quel nazionalismo, gli italiani prima. La cosa continua che dice il nostro ministro: io difendo gli italiani. Ecco, questo è un elemento che effettivamente induce nella nostra società elementi di disgregazione civile molto preoccupanti, che però, ripeto, non creano un regime fascista, creano qualcosa di diverso, qualcosa che è populismo, che, vabbè, chiamiamolo quanto come vogliamo, ma per esempio non c'è apertamente, almeno nella Lega, quella rivendicazione che in un gruppo apertamente neonazista in Germania quel gruppo lì, quello rivendica certamente una continuità con il nazismo, tant'è che nel Parlamento tedesco c'è stata una sorta di clausura nei confronti di questo gruppo: nessuno vuole sedersi accanto, non si collabora con loro, e hanno avuto alle ultime elezioni un successo piuttosto evidente. Non mi pare che nella Lega ci sia la rivendicazione di una simile continuità con un ventennio fascista, non perché Salvini sia antifascista, Bossi probabilmente lo è, Bossi rivendicava il loro essere, Salvini non gliene frega niente del ventennio fascista, diciamo le cose come sta, ha trovato altri momenti di aggregazione del consenso politico e quelli sfrutta. Patria c'è stata come identità, sa, l'identità nazionale è sempre qualcosa di costruito, non è mai qualcosa che viene dal basso, tant'è che gli storici parlano spesso di costruzione della nazione, di nazionalizzazione delle masse, di identità immaginate, che cioè a un certo punto vengono propagandate come vere, ma invece servono a creare identità, non sono espressione di identità, eccetera. Dobbiamo dire che indubbiamente la prima guerra mondiale ha rappresentato per gli italiani la condivisione di un'identità nazionale che prima si sentiva meno. Il fatto che nella guerra siano stati coinvolti così tanti stati popolari anche del meridione, e che poi la guerra sia stata vinta, ha creato una sorta di condivisione di un orgoglio nazionale su cui il fascismo poi ha insistito con il suo battere sui miti della vittoria mutilata, della grandezza dell'Italia, del posto al sole, del colonialismo e così via. Quindi che allora ci sia stata la condivisione di un'identità nazionale declinata in quel modo, io credo che si possa effettivamente dire. Che con l'8 settembre sia nata una nuova identità condivisa? Assolutamente no. Perché lei è vero, una patria che non è fascista, come diceva Natalia Ginzburg, ma che cos'è? I due grossi partiti, il Partito Comunista e Democrazia Cristiana, facevano riferimento ideale a due entità universali, la Chiesa Cattolica da un lato e l'Unione Sovietica dall'altro. Poi, certo, Togliatti ha molto insistito sul carattere nazionale del PC, ma il punto di riferimento ideale era l'Unione Sovietica, cioè il mito di un paese comunista realizzato, che poi aveva contribuito così tanto a sconfiggere Hitler. Per cui in effetti poi è stato difficile trovare una condivisione sul terreno di un'idea di patria condivisa, scusate il gioco di parole, cioè un'unione sul terreno di un'idea di patria condivisa, tant'è che si è sempre detto ma gli italiani poi non sono patriottici, non sono nazionalisti rispetto ad altri paesi. Forse è anche vero, ma forse è anche bene, perché se vedo a certe espressioni di nazionalismo che per esempio si stanno diffondendo in Polonia, in Ungheria e così via, meglio se non siamo così patriottici. Resta il fatto che un corpo sociale, un corpo politico, se non si basa su una qualche condivisione di valori che nutrono il fatto che siamo italiani e quindi siamo compatrioti, difficilmente va avanti. Infatti, secondo me, la cosa preoccupante di oggi è che proprio questi valori comuni, che erano quelli poi enucleati nella Costituzione, sono soggetti a una forte erosione per parte di alcune forze politiche. Poi certo non basta la Costituzione a garantire che effettivamente ci sia un collante sociale. Quello che è stato chiamato il patriottismo della Costituzione è importante se intanto la Costituzione viene conosciuta, apprezzata, condivisa e realizzata. E questo in Italia mi pare che sia avvenuto sempre meno. Rapporti con la criminalità, io qui non so che dire, certo la criminalità si espansa un po' ovunque, ma non farei l'errore di giudicare il grande successo che i partiti populisti italiani hanno avuto al peso della criminalità. Insomma, qui abbiamo il 50% degli italiani che ha votato per i partiti che sono attualmente al governo. La criminalità può aver influito, ma indubbiamente più a livello locale, in situazioni locali, che a livello nazionale. I bombardamenti. E qui è un po' quello che vi ho detto. I bombardamenti sono spesso criminali. E poi noi pensiamo che gli alleati avessero un'idea chiara di quello che andavano a bombardare, ma non sempre era così, eh? Non sempre sapevano che i tedeschi non c'erano più, che era inutile bombardare. Ci sono molte di queste storie in Italia. A volte gli stessi partigiani mandavano a dire agli alleati, ma per esempio dalle mie parti, dove partiva la linea gotica tra in Versilia, diciamo, andavano a dire partigiani, ma è inutile che bombardate lì, che i tedeschi ce ne sono pochissimi e così via. Quindi alcuni bombardamenti sono stati proprio sbagliati, degli errori, altri sono stati voluti perché comunque, come ripeto, si trattava di terrorizzare la popolazione civile, e altri erano motivati dal fatto che soprattutto dopo la liberazione di Roma, molte truppe, per esempio tutto il corpo di rivoluzione francese, viene rimandato in Francia per preparare il secondo sbarco, quello nella Francia meridionale. E quindi sul campo gli alleati non avevano una supremazia numerica nei confronti dei tedeschi, avevano una forte supremazia aerea, per cui utilizzavano il mezzo aereo come più importante mezzo di condotta bellica, o più importante, comunque come un importante mezzo di condotta bellica. Meridionale di resistenza, in effetti, intanto non è vero che al sud non c'è stata del tutto resistenza, perché prima della liberazione di Napoli, e quindi diciamo nel primo mese di occupazione tedesca, vi sono parecchi episodi di resistenza delle popolazioni, a volte resistenza spontanea a una politica degli occupanti tedeschi che era una politica di espropriazione delle risorse. Prima parlavamo di fare, quelli andavano nelle campagne, toglievano tutti i contadini, le bestie, il grano per la semina e così via, e spesso trovavano una reazione alla quale loro reagivano con una forte carica di violenza. Insomma, abbiamo scoperto episodi di eccidi di civili al sud, soprattutto in Campania, molto, molto forti. Poi c'erano anche dei primi nuclei di un tentativo di resistenza politico-militare, non hanno potuto svilupparsi perché dopo, con la stabilizzazione del fronte sulla linea Gustav, non c'è stato più modo, tant'è che la prima regione dove effettivamente troviamo una resistenza simile, non uguale, a quella del centro nord è l'Abruzzo, che rimane al nord. Poi certo il contributo dei meridionali alla resistenza è stato importante, non so quanto questo però sia riuscito ad avvicinare le due parti d'Italia, anche perché poi fondamentalmente quando poi questi meridionali sono ritornati giù in meridione dopo la fine della guerra, non saprei che però almeno mi pare che siano ricerche specifiche sul ruolo degli ex partigiani meridionali che avevano combattuto al nord nella vita politica al sud, ecco, quindi questo non lo saprei più. Però è giusto ricordarlo, perché non è che al sud se ne fregavano, no, le condizioni erano diverse e alcuni veramente al nord. L'Ampi ha fatto 2 anni fa a Napoli un importante convegno nazionale proprio su questo. Bene, grazie a tutti, vi do appuntamento. Prima di ringraziare Pezzino, vi do appuntamento fra 15 giorni a Uggiate, proseguiamo con i nostri cicli di storia della resistenza. Grazie al professor Pezzino. C'è qualcuno che... Scusate, solo per dire che oltre naturalmente, come ha detto Antonio, a ricordare il prossimo appuntamento di questo ciclo di conferenze Uggiate, dove si parlerà di resistenza europea, cioè un tema veramente interessante e poco conosciuto. E volevo ricordarvi che il prossimo appuntamento invece come Ampi di Mariano sarà in questa sala dal 6 al 14 aprile per la mostra Schiavi Hitler sui deportati italiani in Germania durante la seconda guerra mondiale. Stiamo organizzando questa mostra la partecipazione delle scuole e vi ricordo che l'apertura sarà sabato 6 aprile in mattinata in questa sala con il curatore della mostra Walter Merazzi. Grazie per essere venuto.